La prima volta. A cura di Cristina Carpinelli. Gavetta, una vita trascorsa nella provincia modenese. Caterina Caselli ha meno di 14 anni quando si mette a cantare studiando il basso. È la musica che segna tutto il suo percorso, la sua vita. Guardi, la musica è... Io per esempio non potrei vivere senza la musica. Mi rendo conto, cioè, che si può esistere, ma non vivere senza la musica. La musica noi a volte non ce ne accorgiamo perché ce l'abbiamo intorno, no? Però nei momenti tristi o malinconici o nei momenti allegri, se ci pensiamo, insomma, tutto diventa più, si sottolinea di più attraverso la musica, a parte anche... E questo lo dico sempre, indipendentemente dal fatto che uno possa fare carriera o meno, il fatto di, io spero che almeno un nipote dei miei possa suonare uno strumento, che uno strumento è un amico per la vita, ti tiene compagnia. La musica aggrega le persone e le porta, come dire, anche a vedere le differenze, diciamo così, però a rispettarle, perché insieme si crea empatia. Cioè, ci sono tanti aspetti della musica che direi che è una grande cosa per l'uomo, cioè per la donna, per tutti quanti, cioè dà a noi veramente tanto la musica, ci dà un momento, in un momento per esempio di ricordi, può farci ricordare anche degli aspetti della nostra vita che a noi, per noi sono importanti, no? Quindi ci deve essere una festa per la musica, se lo merita la musica, e noi a volte dobbiamo essere all'altezza di quel dono che c'è, che la possibilità di studiare, di imparare, di conoscere, anche attraverso la musica, proprio dà la possibilità di ampliare il tuo sguardo anche su altre discipline, altre forme d'arte. La musica è giustamente una delle muse. Gli esordi, la prima volta di Caterina Caselli, ruotano attorno alle balere della sua Emilia. È una ragazzina, suona il basso e canta. In un'Italia in cui tutto è ancora in fermento, sta per giungere la contestazione di un'intera generazione di ragazzi. Caterina diverrà un simbolo di quella creatività giovane e dirompente. Bevete più latte, il latte fa bene, il latte conviene a tutte le età. Io iniziai a studiare canto e musica e avevo 14 anni. Facevo un lavoro per potermi permettere le lezioni di canto. E poi ho cominciato a cantare qua e là, insomma, con l'orchestra Callegari, che peraltro era il titolare della scuola, insomma, dove io andavo a prendere lezioni di musica. E ho cominciato, sì, avevo circa 16 anni poi, insomma, e naturalmente ho cantato in quelle zone di cui parlavamo prima, spessissimo, insomma, perché poi c'erano le cosiddette balere, no? E che sono state formative per me nel modo più assoluto. E poi pian piano, insomma, poi ci sono stati altri sviluppi, incontri. L'Equipe 84 mi ricordo Maurizio Vandelli venne a sentirmi a Scandiano, che è un posto lì vicino nel Reggiano, e che mi aiutò per esempio ad andare a Roma, insomma. E diciamo che i miei primi passi anche professionali sulla strada della musica, insomma, nascono lì, sono proprio iniziati lì. Si faceva la gavetta, si imparava ad avere il rapporto col pubblico quando ancora non eri famosa, quindi avevi tutto il tempo per poter imparare, studiare, confrontarti. Il confronto è alla base di tutto. E quindi poi c'erano tante possibilità per ballare. L'Emilia è sempre stata una terra molto incline alla danza, no? al ballo come momento di anche di piacere, di un modo per socializzare. Io mi ricordo ancora quando si andava a cantare nelle balere, no? Io ero una ragazzina appunto, e c'erano ancora le mamme che accompagnavano le ragazze a ballare, e c'erano ai lati proprio della balera, c'erano delle sedie dove le mamme sedevano e guardavano. Ogni tanto c'erano i ragazzi che venivano sul palcoscenico, ci chiedevano per favore di fare quattro lenti, no? Che erano gli slow, per insomma, tante piccole cose, piccoli racconti che danno uno spaccato di quel periodo, che è un bel ammarcordo, insomma, ecco. Ad appena 17 anni, Caterina Caselli partecipa alla rassegna Voci Nuove di Castrocaro, arrivando in semifinale. Viene notata dal discografico Alberto Carisch e scritturata La Stella è nata. Diciamo che nel 66, vabbè, prima nel 65 partecipai al Cantagiro, dove perdevo regolarmente tutte le sere perché c'era uno scontro diretto, e io mi presentai con una canzone veramente poco popolare che era Baby Please Don't Go, tradotto in italiano Sono qui con voi degli Them. E allora diciamo che la canzone popolare era molto più, insomma, non so, Morandi cantava la fisarmonica, per esempio, la fisarmonica, e quindi insomma c'era un gap troppo forte, per cui io non vincevo, cioè perdevo regolarmente, però quell'edizione mi consentì poi di farmi conoscere, e l'anno successivo, insomma, partecipai a Sanremo con Nessuno mi può giudicare, che era una canzone scartata da Adriano Celentano perché aveva composto Il ragazzo della via Gluck, e grazie a lui io ebbi a disposizione questa canzone, che era un tango a suo tempo, che noi cambiammo, mi ricordo, cambiamo l'arrangiamento, e assieme a Monaldi, che era il direttore e l'arrangiatore fisso della casa discografica CGD per la quale io incidevo, diciamo che arredò questa canzone in quel modo, con quel ritmo che era un po' il ritmo, diciamo, dominante. Allora si facevano le canzoni dei Beatles, dei Rolling Stones, insomma, e questo è un ricordo. Poi vabbè, Sanremo fu un grande successo, e poi da lì, insomma, ci furono tanti altri 45 giri, incontri, serate, in su e in giù, come si dice per l'Italia. La verità mi fa male, lo so. La verità mi fa male, lo so. Nessuno mi può giudicare, nemmeno tu. La verità mi fa male, lo so. Lo so che ho sbagliato una volta e non sbaglio più. La verità mi fa male, lo so. Dovresti pensare a me e stare più attento a te. C'è già tanta gente che ce l'ha su con me. Chi lo sa perché? Ognuno ha diritto di vivere come. Questo una cosa mi piace, quell'altra no. La verità mi fa male, lo so. Se sono tornata a te, ti basta sapere che ho visto la differenza fra lui e te. Ed ho scelto te. Se ho sbagliato un giorno, ora capisco che l'ho pagata cara la verità. Io ti chiedo scusa, e sai perché? Felicità, molto molto più di prima io t'amerò, ti confronto all'altro, sei meglio tu, ed ora in avanti prometto che quel che ho fatto lì non farò mai più. Ognuno ha diritto di vivere come può. La verità mi fa male, lo so. Per questo una cosa mi piace, quell'altra no. La verità mi fa male, lo so. Se sono tornata a te, ti basta sapere che nasce il ponte. Se ho sbagliato un giorno, ora capisco che l'ho pagata cara la verità. Io ti chiedo scusa e sai perché sta di casa qui la felicità. Nessuno mi può giudicare, nemmeno. La prima volta. Nessuno mi può giudicare sarà un successo internazionale. È il 1966. Adriano Celentano canta Il ragazzo della via Gluck. Questa è la storia di uno di noi, anche lui nato per caso in via Gluck. È Celentano che, scartando la canzone Nessuno mi può giudicare, regala su un piatto d'argento il successo a Caterina. Quell'anno il festival viene vinto da Domenico Modugno e Gigliola Cinquetti con Dio come ti amo, 300.000 copie vendute. Ma i ragazzi corrono a comprare i dischi di Adriano e Caterina, facendo superare 1 milione di copie vendute. La Caselli è una ragazzina modenese, sorridente, un viso circondato da capelli a caschetto biondi. La chiameranno Casco d'Oro. Molte giovani la imiteranno. Ma è stato un caso, direi un consiglio dell'allora direttore artistico Franco Crepax, fratello di Guido Crepax, e lui mi consigliò i Vergottini, erano i parrucchieri dove andava la moglie di Franco, dove andava anche la moglie di Guido, e io conobbi i famosi Vergottini, quali mi videro quei capelli più o meno come avevo ora, insomma, e immediatamente mi dissero: no, ma assolutamente non puoi andare in giro così. Allora c'era un po' anche, cioè erano, come dire, autorevoli, diciamo, no? E mi consigliarono immediatamente di fare un taglio che era il loro taglio, cioè loro. Le donne allora, mi ricordo, dai Vergottini uscivano più o meno con i capelli diciamo tagliati in quel modo, e dunque io entrai con i capelli lunghi e uscì con i capelli corti tipo Casco d'Oro. Il nome Casco d'Oro mi fu dato da Corrado Corradi, che allora era giornalista di Sorrisi e Canzoni, e lui veniva con la moglie a sentirmi la sera all'Intras Club nel 1965 a settembre, e dove io cantavo, suonavo il basso con il mio gruppo, si chiamava Gli Amici, dove c'era anche Callegari, che poi nel frattempo era anche diventato il mio produttore discografico. E lui una sera, vedendomi così, insomma, si ricordò di Simon Signoret e praticamente si ricordò del film Casco d'Oro, e da lì nacque appunto questo bel nome, peraltro. Diciamo che era differente dalla quella di Ligonchio, la Pantera di Gor, la Tigre di Cremona, allora, e quindi insomma io ero Casco d'Oro. Sì, diciamo che era il periodo dei Beatles, dei Rolling Stones, quindi cioè, la musica subì un grande cambiamento, la musica pop, e lo stesso anche fu per il vestire. Io mi ricordo che a 14 anni vestivo quasi come mia madre, insomma, praticamente, no? E poi invece ci fu la grande anche rivoluzione, no? Carnaby Street, insomma. Perdono. A un certo punto, però, nella vita di Caterina Caselli qualcosa cambia radicalmente. La decisione di smettere di cantare in pubblico, di affrontare tournée e concerti dal vivo, si fa sempre più insistente. È la nascita del figlio che fa scegliere una nuova direzione a Caterina Caselli, che però non vuole abbandonare il mondo della musica. Diciamo, i concerti dal vivo, che potevano significare allontanamento, insomma, dalla famiglia. E quindi poi mio figlio, poi quindi insomma è stata quella un'esperienza molto importante per me. E dopodiché, a distanza di 6 anni, sentivo comunque che avevo necessità di rientrare nel mondo musicale. Avevo anche questa facilità, che non era poi una grande facilità quella di avere un marito che era il titolare di una casa discografica, ma diciamo che era una casa discografica molto grande, quindi con tanti dirigenti, insomma una casa importante, e non sapevo bene che cosa fare. Poi pian piano ho avuto quest'idea di una piccola etichetta che si chiamava L'Ascolto, e fatta con ragazzi che provenivano da Radio Popolare, peraltro, quindi nessuna esperienza discografica assolutamente, però amanti della musica, e con L'Ascolto ho cominciato a fare i primi passi ad imparare alcuni aspetti del lavoro, cioè di quello che per intenderci è quello dietro la scrivania, insomma. E negli anni però il fatto di aver cantato credo che mi abbia dato una particolare sensibilità, non ho mai avuto pregiudizi nell'ascoltare un talento o presunto tale, insomma, sono convinta che il talento sia democratico, che possa essere ovunque. E si tratta solo di avere uno schermo bianco in testa, le orecchie, come dire, ben aperte, e aver mangiato bene, digerito bene la notte, quindi essere in grado di poter percepire se dall'altra parte di fronte a te c'è qualcuno che veramente abbia qualcosa di rimarchevole, insomma. Diciamo che mi sono trovata spesso al momento giusto, nel posto giusto, e questo mi ha aiutato, c'è anche tanta fortuna, però c'è sicuramente un aspetto che credo che sia abbastanza singolare per quanto mi riguarda, cioè io quando incontro qualcuno che, insomma, mi pongo così, presto attenzione a qualcuno, se sento che ha, personalmente poi mi sbaglio, non è che mi sbaglio tanto anch'io, ma insomma se ritengo che abbia quelle doti di unicità, io immediatamente mi pongo nei suoi confronti, cioè vorrei fare per lui quello che avrei voluto che avessero fatto per me, e quindi questo credo che crei in un certo senso la differenza. E forse in alcuni casi ha creato la differenza, non lo so, insomma. Però ripeto, ci vuole tanta fortuna, e veramente non è, anche questo non è un lavoro facile. Oggi è ancora più difficile, perché il nostro mercato italiano insomma, si è ridotto enormemente, cioè noi in 10 anni abbiamo perso il 75% del mercato. Il mercato digitale, quello cosiddetto liquido, non ha lontanamente compensato la grossa perdita che c'è stata. Causa anche questa ideologia della gratuità, no? Sulla rete, che personalmente ritengo che abbia molto fuorviato e abbia creato delle illusioni che poi di fatto nella realtà non ci sono, perlomeno non ora, si spera in futuro. Io sono positiva e lo spero che in futuro, insomma, ci sia una presa di coscienza in quel senso, e che si possa ritenere giustamente che la musica per farla occorre investire, per farla bene, di qualità, e che è giusto riconoscerne il valore. E certo, è anche facile appropriarsene non pagando nulla, andando a scaricare dai siti illegali, però spero che in futuro la consapevolezza di, per esempio, se fosse un ragazzo, una ragazza che vuole fare questo lavoro, è importante che ci siano delle persone che possano investire su di te, che siano degli buoni interlocutori, che ti possano consigliare. Tutto questo ovviamente ha un prezzo, no? E sarebbe bene che tutto questo fosse in un certo senso remunerato e riconosciuto. Se, diciamo, il prodotto che vai ad ascoltare è un prodotto che merita, ovviamente. Certo, ma adesso per esempio per i cantanti italiani com'è il mercato? Perché c'è anche il problema linguistico, è un mercato dominato dalla lingua inglese, per un italiano com'è? Ma guardi, paradossalmente invece se è un disco di qualità e portiamo avanti l'unicità italiana, non è vero che il mercato internazionale sia chiuso per la lingua italiana. Guardi Bocelli, noi abbiamo venduto 17 milioni di dischi prevalentemente con brani in italiano, cioè 17 milioni di un disco, Romanza, non di, abbiamo venduto più di 60 milioni di dischi con Andrea Bocelli, ma il grande successo di Andrea Bocelli è stato Romanza. Romanza ha totalizzato 18 milioni di album venduti in tutto il mondo. Per esempio Zucchero ha cantato in italiano la sua musica, che è una musica che viene dal blues, che non è una musica, diciamo, di matrice italiana, però lui ha venduto all'estero cantando in italiano. Anzi, la lingua italiana l'ha in qualche modo protetto da altri artisti che più o meno cantano in quel modo, no? Con quel modo. E in quella... Quindi la lingua italiana, paradossalmente, può essere invece, può dare un suono che spesso quando parliamo con i nostri stranieri, spesso loro rimangono attratti dall'italiano. Questo non vuol dire che appunto un italiano non debba cantare in inglese, però vorrei dire che anche in italiano ci sono delle possibilità, delle chance per cantare, per vendere all'estero. Certo, e ricordiamo allora in Germania, molto breve... pensi Pausini, pensi Ramazzotti, cantano in italiano, eh? Certo, certo. No, ecco, ricordiamo solo brevemente alcuni di quelli che lei ha scoperto, perché lei ha già citato Bocelli, ho citato Elisa, ma ce ne sono molti altri. Beh, certo, Negramaro, Rafael Gualazzi, Malika, Avion Travel. Sotto una montagna di paure, di ambizioni, c'è nascosto qualche cosa che non muore. La prima volta termina qui. Ringrazio Adriana Fracchia per l'intervista a Caterina Caselli. Se volete riascoltarci potete trovarci sulla pagina di Radio 24. Per scriverci l'indirizzo è laprimavolta@radio24.it. Buona giornata a tutti da Cristina Carpinelli.